24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la visita dei commissari europei Rehn e Barnier a Roma. Sfide formidabili attendono l'Italia, ha affermato Rehn. Il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, chiede di puntare su giovani e istruzione per superare la crisi. Intanto il ministro degli esteri italiano sostiene l'ingresso della Turchia nell'Unione. Oggi vi parleremo pure di una polemica che ha investito il cantautore Roberto Vecchioni e il Forum Europeo delle Culture. In primo piano la visita del commissario europeo Olli Rehn a Roma. Rehn ha avuto un'audizione alla Camera e ha incontrato il premier Mario Monti. Government of Mario Monti will certainly devote much of its time and energy. L'Italia ha davanti a sé sfide formidabili anche per le debolezze antiche. Oltre al consolidamento di bilancio, sono necessarie ambiziose misure per rilanciare la crescita garantendo l'equità sociale. Così Rehn, secondo cui il contagio della crisi dei debiti sovrani si sta diffondendo dai paesi periferici a quelli centrali, core dell'Unione Europea. A Roma c'era anche il commissario al mercato interno Michel Barnier. L'Italia non è sotto tutela e il fatto che il premier Monti abbia incontrato venerdì la Merkel e Sarkozy dimostra che c'è uguaglianza. Così Barnier. La crisi in Europa va affrontata con determinazione. L'Italia può contribuire con interventi sul piano congiunturale e strutturale. Così il governatore di Banca Italia Ignazio Visco. L'Italia, per Visco, ha grandi potenzialità. Bisogna investire su giovani e istruzione. Sentiamo. Per un riequilibrio strutturale e duraturo dei conti pubblici è necessario che il Paese torni a crescere. Il concetto è semplice, immediato, innegabile. E dato che la crescita non si crea dall'oggi al domani, secondo Visco servono misure diverse che coinvolgano ambiti diversi. Una riforma organica di tutti gli istituti che hanno a che fare con l'economia, per cominciare, per stimolare l'attività di impresa, semplificando le procedure. E poi più concorrenza, più facile accesso al capitale di rischio, una regolamentazione del mercato del lavoro, con particolare attenzione ai giovani, già penalizzati da salari d'ingresso fermi a 10 anni fa. Un sistema di protezione sociale, una giustizia civile più efficace. Poi, e non è l'ultimo punto per ordine di importanza, Visco parla dell'aumento della dotazione di capitale umano, tradotto un livello più alto di scolarizzazione. Ecco perché gli investimenti in istruzione sono cruciali nella politica economica, oltre a ridurre gli incentivi a delinquere. Ed ecco perché il governatore torna sull'inserimento, tema sul quale il ministro Riccardi e il presidente Napolitano hanno già detto la loro. Senza meccanismi efficaci di integrazione, il paese rischia di perdere, soprattutto in termini economici. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora le borse. Una serie di indiscrezioni diffuse nel pomeriggio di venerdì hanno portato i listini europei a chiudere in rialzo. Bene Londra, Parigi e Francoforte, cresciute di oltre un punto. Più debole Milano con il FTSE MIBA più 0,12%. I listini europei hanno chiuso in positivo una settimana in rosso. Ieri Londra, Parigi e Francoforte hanno guadagnato attorno al punto percentuale, sostenuta da una serie di indiscrezioni che davano possibile l'esclusione del settore privato dal meccanismo salva stati europeo che entrerà in vigore nel 2013. Milano è rimasta più debole a causa dell'asta sui BOT a 6 mesi, che è andata in porto ma con rendimenti oltre il 6,5%. Il FTSE MIBA ha così chiuso a più 0,16% e il FTSE All Share a più 0,08%. Gli acquisti si sono concentrati su Finmeccanica, che ha guadagnato il 3,5%, sulle voci sempre più insistenti dell'uscita del presidente Pierfrancesco Guarguaglini, travolto dallo scandalo sulle tangenti. Negativo il comparto bancario, con l'unica eccezione di Unicredit, che ha guadagnato lo 0,86%. Bene Seat Pagine Gialle, più 4,66%, alla vigilia di giornate cruciali per la ristrutturazione del debito. Male invece Prismian, meno 4,69%, colpita da un report negativo di UBS. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Primo incontro bilaterale per il neo ministro degli esteri Giulio Terzi, venerdì a Istanbul, e ha ribadito l'appoggio dell'Italia per l'ingresso della Turchia in Europa. Sulla questione dell'integrazione europea e dei negoziati di adesione e di tutte le misure di avvicinamento dei paesi che noi riteniamo essere, avere una prospettiva europea come loro futuro e loro destino, la Turchia è quello che sicuramente ha una dimensione e una rilevanza assai più grande di ogni altra, perché un allargamento alla Turchia